arrivato nell'83 a Stereonotte e ci sono arrivato tramite due esperienze. La prima è quella che ha coinvolto molti dei conduttori di Stereonotte, ovvero Radio Blu, una gloriosa radio privata romana, dove buona parte dei conduttori è cresciuta letteralmente, avevamo cominciato tutti giovanissimi, e poi avevo cominciato a lavorare con Radio 3, con la RAI, e quindi quell'esperienza radiofonica conquistata negli anni mi ha permesso di arrivare, per merito di Pierluigi Dabbasso, alla conduzione di Stereonotte. È stata un'esperienza che io tuttora considero leggendaria, una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, delle esperienze più intense, perché si viveva in una sorta di bolla, di universo parallelo, totalmente notturno, frequentando solo altri che, come noi, appunto, non dormivano la notte, lavorando per chi lavorava la notte, che era sveglio per altri motivi, durante la notte, in un'esperienza che mescolava divulgazione musicale, perché ognuno di noi raccontava storie di musica, sceglieva personalmente i dischi da programmare e poi li condivideva con il pubblico. Un'esperienza che mi ha segnato moltissimo, credo che mi abbia condizionato poi in buona parte delle cose che ho fatto dopo, durante, quindi tuttora considero forse uno dei punti, ripeto, più alti e interessanti di tutto quello che ho fatto nella mia lunga avventura nella musica. Ecco, qual era la differenza per un conduttore radiofonico condurre Stereonotte, a parte l'orario? Si parla sempre di libertà, cioè del fatto che potevate trasmettere quello che volevate e costruire un racconto che non era possibile in altre radio. È vera questa cosa? Assolutamente sì, assolutamente sì. La parola perfetta è libertà. Dabbasso ci aveva scelto personalmente, ognuno di noi, proprio handpicked, come direbbero gli americani, per quello, perché avevamo ognuno di noi una personalità diversa, una storia musicale differente, però un approccio simile, cioè tutti quanti avevamo l'interesse a far crescere, per quello che si può ovviamente, noi stessi e il pubblico contemporaneamente, cioè a parlare di musica, approfondirla, ma in maniera gradevole, leggera, non noiosa. Ovviamente dovevamo fare compagnia alla gente di notte, quindi condividere un sentimento oltre che una cultura, nella completa libertà, quindi scegliendo le musiche che noi giudicavamo interessanti o utili a questo scopo. Non eravamo professorali, nessuno di noi, ma allo stesso tempo pensavamo di avere un piccolo compito educativo, cioè di dare la possibilità a chi era sveglio a quell'ora di ascoltare cose diverse, che potessero arricchire l'anima, lo spirito e il cervello, quindi in qualche modo crescere, appunto. Cosa che però facevamo anche noi, perché per studiare ogni sera, ogni notte, una scaletta diversa è interessante per chi era sveglio, e quindi era per forza di cose in compagnia con noi, eravamo gli unici a trasmettere per la nottata intera dal vivo con voci diverse. C'era anche qualche radio privata che faceva il notturno, ovviamente, ma normalmente con un solo conduttore, e quindi questo, insomma, rendeva noi veramente una pattuglia speciale, e ci sentivamo speciali obiettivamente. C'era un grande spirito, come dire, di corpo tra tutti i conduttori di Stereonotte. Sì, la cosa incredibile è anche che questo avviene negli anni Ottanta, negli anni in cui la musica diventa, in cui la musica pop esplode, dove nascono i tormentoni, dove comunque la musica diventa qualcosa di molto commerciale, mentre voi riuscite di notte a riportarla su dei canoni, appunto, io mi sto riascoltando le puntate adesso, che di commerciale non hanno nulla. Grandi racconti, andava a fondo nei personaggi. Era un lavoro complicato il vostro, cioè dovevate essere abbastanza staccati da quello che succedeva sulle altre radio. Guarda, eravamo, secondo me, all'opposto di quello che succedeva nelle altre radio, proprio per l'esperienza che avevamo fatto prima. Le radio erano molto cambiate, le prime radio private, noi abbiamo cominciato tutti attorno al 75-76, e parlo di Sisti, di Viorito, di Mannucci, di tutti quelli che erano appunto a Radio Blu, veramente molti di quelli che erano a Radio Blu sono figli di Stereonotte. Eravamo cresciuti appunto già allora in opposizione alle grandi radio commerciali, perché appunto puntavamo sulla qualità, sulla musica, sulla divulgazione, ma ripeto, non per questo con serietà noiosa, non eravamo, ripeto, barbosi. Il divertimento era la chiave di volta, ci divertivamo noi a programmare quella musica sperando che si divertissero anche quelli che l'ascoltavano, ma ti dico che eravamo in opposizione fino a un certo punto, perché in realtà noi si seguivamo molto la musica degli anni Ottanta, quasi tutti i programmatori avevano una parte di attualità in programmazione, perché quello che ci sembrava importante era far sentire cosa c'era di buono anche nella musica contemporanea, quanto anche un pezzo che sembrava leggero, mi ricordo che io ad esempio trasmettevo le Bananarama cercando di motivare il motivo per cui passavo Cruel Summer delle Bananarama o altri hit single del momento, in cui la pop music raggiungeva dei livelli, come dire, culturali o artistici interessanti, anche lì dove non sembrava fosse così. Quindi credo che questo era il vero, come dire, cuore di Stereonotte, si mandava tutta la musica, quindi da Brian Eno alle cose più leggere, ovviamente non tutta nel senso pieno del termine, nel senso che la musica più, tra virgolette, commerciale, quella che non aveva un buon motivo o una buona storia da raccontare, raramente passava dalle nostre frequenze. Ecco, come era il rapporto con gli ascoltatori? È una radio senza social, senza email, senza Twitter, come comunicavate con chi vi ascoltava? Con le lettere, arrivavano decine se non centinaia di lettere a settimana, di gente che scriveva molto volentieri perché sapeva che noi avremmo, uno, letto le lettere, due, che comunque condividevamo quel clamoroso spazio di vita notturna che noi illuminavamo con la musica, quindi c'era una comunione di spiriti, può sembrare una stupidaggine molto retorica, ma era assolutamente vero. Non c'era solo chi lavorava e quindi che era contento di avere la compagnia nostra, tantissimi camionisti, ricordo le lettere che arrivavano dai portieri di notte degli alberghi, dagli infermieri, da quelli che erano costretti a stare svegli e che erano contenti di avere qualcuno sveglio con loro, che parlava a loro, quindi noi in qualche modo avevamo singoli ascoltatori, non una massa, e questo era terribilmente social perché condividevamo tutto e ci scrivevano tantissime persone, tanti anche che non lavoravano, ragazzi, studenti, insonni semplicemente, che trovavano nelle storie che raccontavamo uno spunto anche per raccontarci le loro storie, i loro problemi, le loro vicende che noi non condividevamo in diretta, non facevamo, come dire, non usavamo le lettere che ricevevamo per farne spettacolo o programma, ma lì dove potevamo mandavamo la musica che ci veniva richiesta, perché anche quello era un modo di condividere e di stare insieme. Quindi direi un rapporto molto molto stretto con gli ascoltatori, senza, appunto, senza social, ma molto social attraverso la carta e la posta. Hai qualche aneddoto da raccontarci di qualcuna di quelle notti che è successo? Beh, qualcosa? No. Che... Lo racconto tutte le volte perché mi piace da morire. Allora, turno ultimo, quello che arrivava alle 6 di mattina, trasmetto perché io sono un grande appassionato e trovavo che a quell'ora del mattino fosse una sveglia meravigliosa, Music for April di Brian Eno, il primo pezzo che si chiama 1/1. È un pezzo di musica ambient, molto lento, molto affascinante, un pianoforte, un po' di elettronica, trovo che concili veramente la vita, lo mando appunto all'alba, passa qualche settimana, mi arriva una lettera di due contadini, adesso non ricordo di dove, due fratelli, che mi scrivono: volevamo ringraziarla per averci fatto scoprire la musica del signor Brian Eno, scritto con la I giustamente, perché non avevano idea di come fosse il nome esatto di Brian Eno con la E, ma diceva: ci ha fatto scoprire una cosa che noi non avremmo mai ascoltato altrimenti. Quella credo sia forse stata una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, in assoluto, nel mestiere che faccio, ovviamente. Aver fatto scoprire qualcosa a qualcuno che non avrebbe altrimenti mai ascoltato quella musica, è una roba che sfata il mito della musica difficile, della musica complicata. Tutto può essere ascoltato nel momento giusto da tutti, non ci sono musiche difficili, non ci sono musiche complicate, non c'è niente di complicato nella musica, c'è solo e soltanto innanzitutto l'emozione, poi l'approfondimento, lo studio. Chi vuole può scoprire la complessità di Brian Eno, ma chi non vuole può goderselo all'alba una mattina andando a lavorare nei campi, e che sarà trovato una cosa assolutamente straordinaria. Senti, in conclusione due cose. Che cos'è secondo te il valore di Stereonotte? Sono passati 30 anni, siamo ancora qua che ne parliamo. Quindi che cosa ha lasciato? Qual è stato il valore in assoluto di quell'esperienza radiofonica notturna? Ti racconto un altro aneddoto che io trovo bellissimo. Ho cambiato casa qualche anno fa, quindi stiamo parlando di molti anni. Io ho fatto Stereonotte l'ultima volta nell'87. Poi sono passato a fare altre cose con la Rai e soprattutto con Repubblica, e quindi non ho più fatto Stereonotte. Parliamo dell'87, arrivo a cambiare casa e vado, l'ho raccontato poi anche nel libro, in una in un'edicola nuova a comprare il giornale. Chiedo il mio giornale, quindi non dico altro che vorrei Repubblica per cortesia. E il giornalaio si ferma e mi fa: "Ma lei è Assante, quello di Stereo Notte". Io ho trovato incredibile, questo è quello che è rimasto, cioè che quelli che hanno ascoltato quel programma, che hanno vissuto, perché non lo ascoltavano secondo me, che hanno vissuto assieme a noi quel programma, non se lo sono mai dimenticato. Il valore era la condivisione verissima di uno spazio vitale che invece era considerato morto, cioè la notte, dove non si fa niente, dove si aspetta che arrivi il giorno. Invece con noi non si aspettava che arrivasse il giorno, si viveva la notte facendo qualcosa, cercando nella musica motivi di interesse, di passione, di cultura, di divertimento. Credo che quell'esperienza sia stata impagabile non solo per noi conduttori che l'abbiamo fatta, ma moltissimo per chi l'ha ascoltata e che non l'ha dimenticata mai. Senti, in conclusione ti chiedo un ricordo di Ernesto De Pascale. Tra qualche giorno sono 10 anni dalla morte ed è anche il motivo per cui ritrasmettiamo una settimana di Stereo Notte. Lo facciamo in questa data per ricordare Stereo Notte, ma anche lui. Ernesto era una forza della natura, al di là del fatto che ci chiamavamo tutti e due Ernesto, una rarità in questo mondo, sempre più una rarità, ma era veramente un concentrato di straordinaria energia, capace di fare 50 cose contemporaneamente, quindi votato meravigliosamente alla causa della divulgazione. Non voleva, non poteva, non doveva fare altro, l'ha fatto in maniera, come dire, maiuscola, stringendo anche grandi rapporti di amicizia con noi tutti, e quindi è una persona che ci è mancata, che ci manca, che ci mancherà.